attaccato. Va bene comunque, dai. Sì, sì, va benissimo. Radio 8, piena piena. Già va bene, Franco. Fiume Santo mi hai detto così, Fra. Campo di positivo, Fiume Santo. Sì, ah. Io mi ho acceso adesso, ho visto c'è un po' di propagazione, forse in laterale, dopo faccio qualche prova a vedere se esco. Come ti sto arrivando io da quelle parti, Fra? Passaggio, passaggio. 1, 2, 3, prova radio, CQ, CQ, CQ. 9, 5, piccolo, 9, 9, 5, ok. Via Fra, io sono in questo canale, se ti devi spostare già sono qua comunque. Giovanni, ci ascolti in California, cambio. Giovanni ti chiama Franco, se lo senti, California. Sì. Ah, non, io non l'ho sentito se c'è Giovanni. Attento Giovanni, ci sei? Sa che ti sta rispondendo, Fra, io lo sento in mezzo al QRM, però la radio è molto bassa, Giovanni. Giovanni attacca il 7001 come l'altra volta, che ci sentiamo in FM. No, io sono in AM adesso, però l'altra volta Giovanni non sentiva molti interlocutori, compreso Natalino. Poi siamo passati in FM e in banda laterale e riuscivano invece a parlarci, capito? Perché se no Giovanni come segnale di radio esce molto basso, capito? Che va bene, Fra, ti ho detto la radio si capisce, è bella, è un pochettino, mi sembrava compressa, però adesso va molto meglio, qua il Santiago mi arriva, Santiago 8 pieno, capito? Sì, Fra, ti ascolto, già ti sento sempre. No, ma perché quello che c'avevo mi stava dando problemi, capito? Ah, adesso sei perfetto, perfetto. Santiago anche hai migliorato anche di segnalino. Sì, Santiago 9 adesso mi stai arrivando e la radio è perfetta. Campo di positivo, Franco Arpiere Vera. Buonasera Claudio. Ciao Carlo, a lui sta parlando quel cuocomane di Franco. Ciao, ho capito. Tu mi ascolti, Claudio, anche te la faccio di farti che ascoltate. Arrivi anche qua. Cosa hai detto Carlo, non mi ascolti? Sì che ti ascolto, no, ma forse stavi dicendo a Franco che aveva abbassato il volume e quindi non avevo capito. Ah, ecco, sono andato io, ho abbassato il volume, quando faccio parlare a Franco devi sollevare. Lo so, come sto arrivando io, Claudio, da te? 240, sì, attaccato. S. Prova a attaccare. 1, 2, 3, prova. Così sei attaccato. Oh, così sono attaccato, Prova a attaccare. Adesso sono staccato. È da 9.30 a 9.40 ormai. La distanza è anche molto breve, capito? Quindi, però già si vede che c'è un tacca e stacca, no? La voglia si vede, la grande. Bene, va bene. Anche Franco che è lì a Fiume Santo mi ha detto che gli arrivò bene, segnale 9.30. Normale. E al vento ho visto che già si comporta bene, ha visto quelle giornate che ha fatto, là non ci eravamo più sentiti. La guardavo, si muoveva sempre la parte superiore, ma il resto rimane ben saldo, capito? E spiegalo agli altri, dillo agli altri che non capiscono che cosa hai comprato. Non capiscono cosa hai comprato, si lamentano tutti per l'altezza. Quella mantella di 8 metri, ma è fabbricata molto bene. È stata colorata, non è una mantella che è nata adesso, è una mantella che c'ha secoli. È stata modificata per farla lavorare in questa banda, ma l'antenna militare che ha fatto la storia. Vabbè, comunque, ognuno apprezza quello che compra e si vanta quello che ha. Per me quella è la migliore antenna in assoluto e non ce n'è che la battono, niente, neanche una, né come è fatta, né come è costruita, né come esce, né come riceve. Yeah, vediamo chi c'è sotto, là. C'era Giovanni, ma lo sentivo molto basso, non so se tu l'hai sentito prima, da Platamona. Ah, boh, non lo so, se non parlo non lo sento. Vai sotto terra, vai ragazzi, sempre più basso, sì. Per me è sotto terra, segnale 1, radio 1. Io lo stesso, la radio è proprio bassa, bassa, bassa oggi. L'altro giorno ho attaccato un'altra radio e aveva aumentato notevolmente di radio e anche qualcosina di segnale. Ma oggi Giovanni sei molto molto basso di radio, facciamo fatica a capirti. ho capito che c'è in vettura, ma quando si esce in vettura bisogna sempre fare qualcosa, altrimenti è un casino. E California invece dopo è Fiume Santo, ho sentito così. Sì, sì, fra Fiume Santo mi ha detto fare una passeggiata, però. Ah, fra una passeggiata a Fiume Santo, va bene, va bene. Ottimo per la truppa, va bene. Vediamo se c'è ancora. Franco, ci ascolti ancora? Boh, non lo sento più Franco, magari è sceso dalla macchina, perché gli ho chiesto se andava a pescare, se stava pescando, mi ha detto no, sono venuto a fare un giro, una passeggiata qua, oppure sta cambiando radio, non lo so. Come va Claudio? Bene, bene, assente un po' a queste parti, ma c'è un sacco di cose da fare, poi non è che ci sia tutto questo traffico, quindi ogni tanto la faccio salutare e basta. E va bene. Anche io in questo periodo ho avuto un bel po' di cose da fare e adesso qualcosa l'ho sistemata e qualche attimo in più ce l'ho di tempo il pomeriggio. Tutto bene comunque qua, la stazione radio che ho fatto già va bene, l'antenna idem e non mi posso lamentare. Ecco, ti devo lamentare, ottima antenna, ottima posizione, ottima radio, stai andando benissimo, non c'è problema. E non ho sentito più neanche Roberto. Non ho sentito lo stesso Claudio Di Muros, io i giorni scorsi sono entrato e però non è da parecchio che non li sento loro, capito? No, io e Roberto stiamo trasmettendo molto in mondo amatoriale, ecco che siamo un po' assenti, io, Gianfranco, Roberto, siamo tre amatori che frequentano questo canale, Claudio non so che fine ha fatto, non ho sentito neanche io. Beh, io vi saluto e mi ritiro per deliberare da altre parti. Piacere ascoltarti, Carlo. Saluto Franco, Giuseppe c'è ancora, Giovanni, e ci sentiamo, ciao. Ciao Claudio, grazie della chiacchierata, già ci sentiamo in queste frequenze quando vuoi, già siamo sempre qua, ci fa sempre piacere a sentirti. Claudio, buonasera, scusa, abbiamo ripreso che stavo parlando con quella corrente. Buonasera, arrivi bene anche qua, non proprio, dai Carlo. Ciao Fra, ciao, e arrivi bene anche tu, non c'è problema, io già lo sai cosa sto usando. Sto usando 757 con l'MC50 e niente, infatti sono una ventina, non di più. Va bene, beh, vi saluto, faccio in compagnia di Carlo, ciao ciao. Ciao. Giovanni, dove sei? Luna. No, fai un passaggio più lungo, ho sentito la finale, Luna, l'hai detto. Cambio. Eia, dove sei adesso? Sempre in barra mobile? Positivo, positivo. Perché adesso mi arrivi forte di segnale, Santiago 9+20. Ma no, non è necessario, vero? Come hai detto, ripeti che non ho capito. La radio, vero? Non c'è radio. La radio adesso va meglio, anche la radio è salita. Guarda, la radio va bene, perché ti ascolto io qua a Fiume Santo. Chiave, dove sei? A Fiume Santo, chi sei? California, ti ascolto qua a Fiume Santo. La radio è buona, sta andando bene. Giovanni, l'hai sentito Franco e a Fiume Santo? No. E riesco a arrivare a Fiume Santo, ma dove ti dai? Non è neanche tanto lontano. E ha detto che ti sente bene anche di radio lui, ha detto che stai andando bene, ma sei in postazione elevata adesso? Strada, diciamo nella finestra, dai, una stradina che devo passare dentro una finestra, sto passando. Sì, 9+20 qua, radio 5 adesso, ti sento bene. Oh. Faccio un attimo di bianco, 5 minuti e sono di nuovo operativo. Tranquillo, attento Gianfranco, cambio. Eda, mi ascolti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio. Ti ascolto, sempre la solita cosa tu. Eda, come sto arrivando? Sempre bene, Fra, sempre bene. Attento Giovanni, cambio. 1, 2, 3, prova radio, prova, attento che chiama Giovanni, cambio. Ti ascolti Giovanni, cambio. Avanti Franco, vieni avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8910, Papa 123. Sento Franco, Franco mi ascolti, cambio. Ti ascolto. Sento Franco, Franco. Ti ascolto, cambio. 1, 2, 3, prova Franco, prova Franco. Attento Giovanni, cambio. Franco, Franco, ci sei ancora? Giancarlo, guarda un po' la radio se va bene. Ok, va benissimo Franco. Radio 5 qua, Santiago 9 adesso. La radio com'è? Buona, mi rendo conto, ho cambiato il microfono. Sì, sì, è perfetta, ti sento molto bene qua. Ok, prova a parlare. 1, 2, 3, prova radio. Passaggio. 1, 2, 3, prova radio, radio, Franco, come mi senti? Prova. Niente, io sono attaccato adesso e sono oltre 50. Va bene, Giovanni c'è ancora? Diego, Carlo, non so se ti senti, ma ci sono, cambio. Sì che ti sento, Giovanni. Dove sei di preciso? Sempre zona Platamona? Sto girando lì. Ti stai fermo in un punto dove prendi bene. Adesso ti sento bene. Santiago 9, capito? Santiago 9, Radio 5. Sono libero qua, hai un posto libero. Via, già va bene. Franco lo senti ancora? Assolutamente, Franco, già da un po' che non lo sento. Fra, com'è il mare in quel di Porto Torres, Fiume Santo? Non l'ho sentito che stava al mare, Fiume Santo. Perché a me mi ha detto che stava facendo una passeggiata, forse. Sicuramente si è allontanato dalla vettura. Sì, no, l'ho sentito poco prima. Mi ha detto che ha cambiato microfono e di segnale qua mi stava arrivando bello sparato, capito? Radio 5, Santiago 9, anche lui. Quello che ha delle apparecchiature. Carlo, dammi la cortesia, vedi un po' adesso se la radio ha migliorato, è sempre buona. Non buona, ottima direi, ottima, qua rimbomba tutto, capito? Però è bella, chiara e potente, si sente molto bene, radio super 5 qua, Santiago 9. Perché ho aperto le leggi di questa radio, perché era chiusa. Dai, meglio di prima, vero? A voglia, adesso è bella squillante, capito? Però bella chiara. Ma così dovrebbe andare bene, se non lo metto di più e già va bene così. Sì, sì, così è ottimo. Lascialo così, Fra, allora. Ti ho chiesto com'era lì il mare. È mosso oppure calmo? No, è bello il mare qua, è bello. Di uscio alla grande. Freddo c'è, arietta oppure tranquillo? Ma diciamo che dentro c'è, è buono come il mare, è buono. Ci sta bene, là, c'è un po' di caldo, adesso fra un po' dopo me ne vado. Ci sono là tutto il giorno, là. Ho capito, sì sì. Ascolta, ma le VC alla radio come l'hai aperto? Da dentro? Sì sì, l'ho aperto da dentro perché praticamente era chiusa. Ho capito, anche qua lo dovrei fare in questa radio, però non so dove si trova e non so cosa toccare, quindi prima mi devo informare bene. Vabbè, io questa l'ho controllata e l'ho trovata subito, capito? Perché c'è un serve elettrico di questo. Ho capito. Anche io dovrei averlo qua di questa, lo schema elettrico. È da individuare, capito? Però siccome non l'ho mai fatto prima, quindi vedrò di chiedere a chi lo sa fare, capito? Radio è? È una Albrecht 5890. Io sto chiudendo, sì sì, ho capito. Vabbè, ma lo schema c'è la LC. Allora le LC si trovano, che c'è quel trasformatore, il modulatore si chiama. Ed è un trasformatore con l'altro rosso praticamente. E ha due. Praticamente c'è il trasformatore dell'alimentazione e il trasformatore della LC, quello che comanda la radio. Ho capito. Quindi cosa c'è, una vittina da girare o qualcosa del genere? C'è un trimmer lì, lo devi girare, allora girando verso destra diminuisce, girando verso sinistra aumenta, capito? Sì, sì, ho capito, è un lavoro che dovrò fare perché praticamente ho un microfono preamplificato, l'MB più 4, è perfetto, ho fatto il collegamento, funziona come microfono normale, si sente anche bene, però non preamplifica niente, capito? Perché c'è la LC chiusa, io questa l'ho aperta adesso, capito? Sì, sì, ho capito, ma lo farò anch'io quel lavoro, così posso usare anche un altro tipo di microfono, capito? Perché i collegamenti ho capito come si fanno, li ho fatti, ho uno spinotto a 6 poli, di sé ne ho collegato 4, capito? Però quando vado a fare le mic gain eccetera non ti amplifica niente, capito? Perché c'è la LC chiusa, capito? Questa parica c'aveva la LC tutta chiusa, adesso mi costerei che lo sto pilotando con i miei io. Sì, ma la radio è buona, Fra. Prima si mangiava la radio, capito? Perché era chiuso. Io avevo 3 watt, giusti, 3,5 e pilotato con 100 watt. Capito, capito, perfetto. Anche io qua sto pilotando, e però ho il regolatore di watt, capito? Il pomellino che regolo e più ne dai più potente esce, però adesso sono con una 50. Capito, però se le dai troppo ingresso si mangia la radio. Però scalda, maledizione, questa roba. Vabbè, quello anche il mio scalda, è così. Purtroppo è così, adesso l'ho abbassato un altro pochino, vedo dal rosmetro che c'ha il coso dei watt, la lancetta, adesso non so la scala, non l'ho capita bene ancora questa scala, come l'ho messa a metà comunque, se no prima mi andava a fondo scala. Ascolta, io voglio provare un altro tipo di antenna adesso e vedo un po' il segnale, adesso è 9, giusto? Sì, Fra, adesso è 9 pieno. Adesso provo a cambiare un altro tipo di antenna. Vai, già sono qua, fai con calma pure. Va, tu sei con l'antenna in macchina, con la base magnetica oppure ce l'hai fissa sulla capota? Io sulla capota l'antenna, sulla capota. Capito, si sentono in sottofondo gli americani, non so se tu riesci a sentire qualcosa. No, che ti ascolto, Giova. Sono a casa. Come Giova, scusa che c'era un po' di QRM che mi è salito e non ho capito bene. Sono a casa. Sei arrivato a casa? Oh, mi sta arrivando il QRM a Santiago 7. No, non ho detto Carlo, ti sento così tanto. Via, Giova, Santiago 9. E la radio? E la radio, tu prima in macchina avevi dei punti dove sei passato con radio 5, adesso è una radio 4, però bella comprensibile, capito? Però bassina di radio. Segnale invece va bene, Santiago 9. La radio non è il meglio, capito Giova, perché si alza, si abbassa e quindi a volte sale il QRM e ti sento a fatica, capito? Adesso sei sceso anche di segnale, Santiago 6, con la emessa l'altra antenna. Dimmi Giova. Carlo! Vai, Fra. 1, 2, 3, 4, guarda un po'. Va bene, Santiago 9. Stampa il positivo, aspetta e provo io. Adesso è sceso a Santiago di 7, capito? Santiago 7. Stampa, io sei salito, ok, aspetta e provo l'altra antenna. Già siamo qua, stavo guardando i risultati. Il Cagliari ha vinto fuori casa. Sì, no, buonasera, si conferma. E mera, forza Cagliari. Ma dov'è Franco? Giù a cosa? Proprio Torres? Franco è a Fiume Santo facendosi una passeggiata col camper. Infatti già lo sento, già lo sento, dai. Giovanni lo senti? Giovanni no, fa niente. Giovanni evidentemente o è l'antenna o il cavo d'antenna, non lo so perché so che ha cambiato antenna, l'ha messa nuova, però non esce come dovrebbe, perché nella posizione dove lui, Platamone, è tutto aperto, quindi qua Sassari sarebbe dovuto arrivare sempre con un segnale forte e anche una buona radio. Qua io sono, città mercato adesso, in casa città mercato c'è tutto in macchina. Ho capito, città mercato come trafficato qui. Non vedi niente. Lì non manca mai, lì non manca mai. Domani ci passo e mi metto un po' di benzina allo Shan, capito? Perché è quello più conveniente per adesso. Salto mio, poi la sigaretta, è mio cugino, è stato a macchino qui, me ne sono fuggito due secondi, guarda, mi sono una fila lunga, boh, saranno 20 persone. E lì c'è sempre gente perché giocano anche a Super Enalotto, sistemini e cose del genere, quel tabacchino è sempre con la fila quando passi di sera. Meglio così. Aspetta che non la bassa. Attento Carlo! Hai Franco, siamo sempre qua. C'è anche Cristian e a Sassari in zona Predaniedo, Ocean. Guarda un po'. Fai un altro passaggio che ero distratto, Franco. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, Santiago 9 qua, a Bomboletta, Radio 5. Va bene. A Voglia, qua mi arrivi molto bene. Fiume Santo io ce l'ho di fronte agli occhi. Ma c'è qualcuno sotto, sento un fracasso. C'è molto QRM, si sentivano gli americani prima. Infatti io ce l'ho, lo squelce regolato molto alto, se no è un frastuono. Ho capito, no, perché c'è roba di QRM, sono stato un grosso casino. Infatti, sì. Ce n'è di Cagnara. Quindi differenza non ce n'è, sempre 9, giusto? Quindi l'antenna un po', l'altro ho messo un'altra antenna. Però è lo stesso, no? Non cambia. No, fra, perché comunque sia in linea d'aria qua, se poi c'hai sempre l'aiutino, ma anche senza va bene comunque, anche quando moduli senza mi arrivi con un segnale di 7, però va bene, la radio è sempre 5, il Santiago 7 è buono, capito? Esatto, va più che bene, dai. Lo credo, va bene, fra, va benissimo, ti sento sempre bene in quelle coordinate. A te, Giovanni. Hola, Carlo, mi ascolti, cambio. Oh, finalmente ti sento bene, guarda che ti sta chiamando Franco, Giova, se lo senti. Attento Giovanni, cambio. Va, ti sta chiamando Franco, lo senti? Io Franco non lo sento proprio, Ti sta, forse perché ti stava chiamando e quindi prova a chiamarlo tu a vedere se ti risponde. No, 1, 2, 3, Franco, attento Franco, se mi ascolti, cambio, Franco. Attento Giovanni, cambio, se mi ascolti, cambio. Non riesci a sentirti, Franco, Giovanni non riesce a sentirti, capito? Io lo sento adesso con un bel segnale di 9 e la radio 4 piena. Ma qua lo ascolto, negativa la sua modulazione. Vai Giovanni, fai un altro passaggio. Attento Franco, mi ascolti, cambio, 1, 2, 3, prova Franco, attento, mi ascolti Franco, cambio. Niente Fra, ti stava chiamando anche adesso, ma forse neanche tu lo riesci a sentire Giovanni. No, negativo, non arrivo a quello. Arrivo basso, sento, vai, non riesco a capire quello che dice. Sì, il problema è la radio, perché adesso il segnale suo mi sta arrivando a Santiago 9 di Giovanni. Io lo riesco adesso a tirar bene fuori, radio 4, però sempre bassina, capito? Per dove lui doveva essere radio super 5, capito Giovanni? Capito, ti ho ascoltato bene, sì, ho capito. Hai inserito anche un po' di eco, Giovanni? Non ha toccato niente ancora, sono appena arrivato a casa. Mi sembrava che ci fosse un pochettino di eco, capito? Il microfono come l'ho lasciato stamattina? Non ho sentito comunque. Sicuramente in zona molto negativa, capito? Giovanni, sei a casa, mi confermi? Positivo, sono a casa, ti confermo, sì. Perché mi chiedeva Franco, Giovanni adesso è a casa sua, capito? A casa sua, che stasera si sente un chiasso sotto, c'è propagazione, sta entrando di tutto e di più, ma non si capisce niente. Beh, domenica sera, no? Ho provato anche in banda laterale, anche lì c'è un sacco di chiamate eccetera, ma troppo traffico, capito? Io stamattina ho parlato con Polizia delle Canarie e poi in America comunque. Sì, perché la propagazione verso quelle zone lì attraversa la Spagna, Canarie, se riesci a passare l'Atlantico arrivi sino alle coste degli Stati Uniti, capito? Massachusetts, sentiva la zona alta anche degli Stati Uniti, a volte arriva anche il Canada. Adesso te lo dico subito, perché c'era mia moglie che non si trovava, l'ho fatto uscire e ha sentito anche lì che sto parlando. Adesso ti chiedo, te lo dico subito con chi ho parlato. Sono rientrato. È sempre Daniele da Acri. Sì, sono Daniele, siamo lì aspettando quei amici che sono mancato. Ho capito. Io mi facendo quattro chiacchiere, c'è Franco che è a Fiume Santo e Giovanni Platamona. Franco, mi senti? Franco? Capo, era il Brasile, ho parlato col Brasile. Ah, col Brasile sta parlando, bravo. Ah, ho capito perché innesca l'apparato. Quale Cristian? Il mio, ho capito perché innesca. Il volume del microfono, lo tengo alla metà. Ho capito, sì. Ieri con Natalino, ieri mattina, mi stavo giocando al microfono, l'ho tenuto a metà e non fischia più niente. No, guarda, dopo lo sollevo. Fischiamo? Sì, si sente l'innesco. Guarda adesso, lo senti? Adesso no, prima l'altro passaggio ho sentito. Il microfono a metà lo tenere. Capito. Meglio così, dai, almeno questo è risolto, dai. Infatti, quando riesci a risolvere una situazione antipatica è sempre meglio. Visto che DM1000 è fuori uso ormai. Io lo stesso ho un microfono che vorrei sfruttare, preamplificato, però la radio non ha il trimmer, l'LC chiuso e quindi non funziona. Cioè se collego il microfono si sente bene come questo, però non ha la funzione di microfono preamplificato, capito? No, qui invece il trim è stato detto modificato, forse qui, molto probabile. Poi ti spiegherò in verticale, ma ci vediamo. E niente di che, poi ho preso da fusare un M95 e gli ho adattato. Andavi a Cristian, ciao Cristian. Ciao Franco. No, ti sento basso, come vai? Sono città mercato, sono zona base, zona lontana. No, capi, cosa stai dicendo, Città mercato. Ok, a città mercato in zona bassa, Fra, già ti sente però lui. E vai a lui, l'ascolto passo. Qua segnale siamo aumentato adesso? Sì, Franco, hai 9 con picchi positivi, capito? No, mi interessa la radio, se va bene, ok. Va bene la radio, va bene, perfetta. Ti sentivo anche Cristian, ti sente? E addirittura, certo, a Giovanni comunque non ascolto, eh. Io lo sento, radio 3, però lo sento. Sono l'unico che non lo sente, ragazzi, io ancora non lo sento. Io sento radio 3, però sento abbastanza radio pulita. Cristian! Dimmi Franco se mi senti! Non ti sento, sento passo di radio. Giovanni, ci sei? Io mi sono, ci ti ha marcato nel piazzale, seduto in macchina per adesso, poi mi sposto. Per adesso, ho capito. Adesso è nel piazzale di Città Mercato, un attimo, poi ha detto che si sposta e quindi magari se sei ancora lì da riuscire a sentirlo. E Giovanni invece c'è, sì. Chi c'è? Anche Giovanni c'è sempre. A me non mi sente Giovanni. Positivo, sempre ascolto. Sì, ha detto che ti sente. Giovanni, mi confermi, lo senti Franco quando modula? Assolutamente, Franco non lo sente, assolutamente no. Ha detto che non ti sente, anzi scusami Franco, non ti sente. Non riesco a capire come si sia possibile, dai, da Fiume Santo dovresti arrivare bene lì. Non lo so. Però qua arrivi, ti sente Christian e io ti sento bene lo stesso, anche quando stacchi tutto con Santiago 7, radio sempre 5, capito? Quindi ottima radio e anche il segnale idem. Sicuramente è da lui allora, che non riesco, magari è da perché sono proprio giù dalla ballata, capito? Magari da lui non riesco a uscire. È probabile che magari c'è qualche ostacolo e non riesci a passare, capito, Fra? Se lo senti da qua, figurati. Aspetta che vi siete sovramodulati. Cristian, avanti tu. Lo sento io qui, da qui a Franco, figurati. Non lo sento cosa, non lo sento Giovanni. No, così ha detto Giovanni che non riesce a sentirlo, Franco. Lo sento io che sono più lontano di Giovanni. È segno evidente che ho l'antenna e ha qualche problema, anche se so che Giovanni l'ha messa nuova, oppure può essere il cavo dell'antenna, non lo so, non ho idea di perché la zona di Giovanni, ripeto, è un'ottima zona, quella aperta. Allora sicuramente Giovanni è l'impianto di massa che non sta facendo massa l'antenna. Probabile. Perché sicuramente non ho ripiegato la mela sul tetto sotto e non fa contatto bene con la lamiera. Probabile che sia qualcosa del genere che non lo fa uscire come dovrebbe. Capito, fa e non fa contatto, non ho togliere lo strato di premere che mettono in origine. Sì. Giovanni, come sa va? C'è un po' di problemi alla bocca, magari è per quello che non riesco molto sempre a parlare bene. Guarda, per quanto mi riguarda, adesso qua mi stai arrivando con Santiago 9, Radio 4, capito? Radio 4. E magari anche quello che parli un pochettino distante dal microfono, eccetera. Niente, dai, però io già ti ascolto bene, perché hai visto Giovanni l'altro giorno quando abbiamo fatto le prove in banda laterale, hai sentito anche Natalino che non ti riusciva a sentire mai, quindi alla fine non so quale sia il problema, può essere che non stia facendo massa bene l'antenna, capito, il palo dell'antenna. Arriva qua, attento Giovanni, non so, riprende il carro, non ascolto. Ho sentito più, Dio, attento Giovanni, ma Dio, chi era? Giovanni, è Franco che ti sta provando a chiamare, però evidentemente la zona non è positiva per quelle coordinate tue, capito? Magari è in un fosso e non riesce ad arrivare. È Franco che ti stava chiamando. Ciao Giovanni, mi senti? Qualcuno che mi sta chiamando, però dimmi il nome. Sento qualcuno, Giovanni, mi senti? Chi è? Sono Cristian. Un pochino ti sento, Cristian. Ti sento un pochino, sì. Ti sento. Fa un passaggio. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova, rapido, cambio. Qui sono 9.30, va Blue Smith, radio di 3, qui sto facendo bene, qui ti sento io. Come fa? No, Cristian c'è sempre a Predanienda. Proprio mi sposto. Detto che adesso si sposta, Fra, e magari riesce a sentirlo. Va bene, mi sa che qui tra un po' quando il bambino prende sotto sedile, dai. Carlo, attento, mi senti, cambio. Ehi, a Giovanni, sto facendo una piccola saldatura, quindi un attimo di bianco per me, rientro tra un attimo. Perfetto, ok. Sicurici. Hola, attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno. Ai Charlie. Ai Cristian. Aspetta Cristian che mi sto misurando una cosa come sto uscendo di radio. Fai. Perché ogni tanto me lo fanno toccare questo microfono. Cavolo. Così va bene. 1, 2, 3. Hola. 1, 2, 3, prova. Hola. 1, 2, 3, prova. Così va bene. Si conferma. Questo qui è un microfono autocostruito, Vicky. Oh, Cristian. Lascialo così che va bene. Ah, tu hai del problema perché stavo innescando, lo sai? Cosa? Tu hai del problema perché stavo fischiando il microfono. Aspetta un secondo. Capito, già. Ehi Cristian, adesso Carlo ci sei? Non c'è radio. Adesso Carlo ci sei? Sì, ci sei. Ok, ok, avanti. Sto uscendo, non stai uscendo di radio. Adesso sì. Però io comunque ero avanti. Aspetta. Mi sto ascoltando. Parliamo di migliaia di persone che si sono messe in marcia, si calcola che siano 500.000 le persone che hanno già lasciato il paese attraverso i confini di Polonia, Ungheria. Allora. Passaggio, Torello, mi ascolti? Ti ascolta, Bovia. Sono arrivato lì, poi ho avuto problema del microfono. Sì, segnale quasi no, chi crede che sta facendo male il microfono? Io. Sono io, perché sono lasciato. Chi crede il microfono è venuto da metà. Deve essere che le luci del coso della radio aperta un po'. Sono troppo e spinge troppo il microfono. Non so che spingere questo mattino. Ah, va. Eccoci qua, chi c'è? Buongiorno. Dottore, è entrato. Ciao Carlo. Ocri, stavo facendo delle prove in SSB, mi ha risposto Danilo da Sassari. Danilo? Ah, Danilo. Sì. Esatto, forse ce l'abbiamo anche qua, eh. Aspetta un attimino. Sono 28, ci sono gli americani, sono a far vendere, mette il cane. Gli AM. Uno arriva a segnale 9, l'altro mette musica, segnale 7 e poi c'è un'altra ancora. Un casino su 28. Ma è che di 28 ce n'è uno e tutti gli altri ne hanno 31, Antonè. Sì, se ascolti sul canale 28 c'è un togliaio di americani, ce ne sono 5-6. Uno da Kentucky, l'altro non so, da New York, mi pare. E uno mette musica, l'altro c'è una specie di ripetitore, dice sempre le stesse cose. Se la fa rendi. Carlo, ti saluto, ciao Carlo, ciao a Torello. Ok, sono rientrato. Ehi, ciao, sono andato a pescare. Ciao, sto rientrando. Come stai andando a pescare? Dove ti permetti? Ciao Carlo. Ciao Franco, buon rientro. Avanti, l'altro amico sta facendo qualcosa, non capito niente. Certo, dove stai andando a pescare? Io vado a pescare, non ci vado, dove vado a pescare? In casa. E Franco che stava andando a pescare. Io ho sentito uno sta andando a pescare, però non ho capito chi era. Era Franco che stava pescando e stava rientrando. Avanti, avanti. E oggi abbiamo anche l'arbitro. E oggi abbiamo l'arbitro in mezzo ai piedi. Quello c'è sempre, ogni tanto si sveglia. Buonasera, buonasera a tutti. Saluto tutta la rotta, cambio. Beh Carlo, hai finito con la saldatura? Sì, sì, finito. Stavo facendo delle prove sulla banda laterale. Sai che mi piace, ci sto andando spesso io, mi piace lì andare lì. E lì è il canale di chiamata e poi se trovi quello che ti risponde da lontano gli chiedi di cambiare frequenza e così ti fai una chiacchierata più tranquilla, se no lì c'è troppo bailame anche stasera. È un po' troppo traffico. E questo ha solo 80 canali, non è che poi secondo me dove ti mandano non ci puoi neanche andare. Ma adesso c'è il 7001, Giova. Positivo. con questo vai molto meglio, con questo. Io stamattina un controllo radio mi hanno detto che era meglio il 48. Lascia perdere, lascia. Questo va molto meglio. Guarda se senti Antonello. Sì, ho voglia che mi senti a me. Sento, sì, Antonello, positivo, ti sento. Buonasera, sono ben entrato. Ciao Giovanni, col 7100 della Icon, di C? No, 7100 Midland. Ah, no, io sto usando l'Icon 7100. Io è pochissimo, è un paio di mesi che sto bazzicando con questi barattini. Non li conosco neanche, figurati. Ma non è quello piccolino piccolino, tipo il veicolare, no? No, no, no, è molto grande questo, è più grande, è molto più grande del, per fare un esempio, del 48. Veicolare è sempre. Dani, puoi andare sul canale 40, anche Carlo. Certo che sì. Aiuto. Lava, lava. Chi c'è rimasto? Ora. Io ci sono? Sì, sempre saturo qua, sto uscendo. Ma va bene. 1, 2, 3, prova radio, prova 1, 2, 3. Ottimo. Ok, ok. Ok, in quanti siamo adesso? Natalino, ci sei? Sì, signore. Ci sono io, Natalino, tu e poi Giovanni mi sa che ha chiuso. E ancora io. Cristian. Quindi siamo in 5 in 6. E vai Mari, tutto a posto? Tutto a posto, sono io, ciao, è Cris, non posso entrare, sono... faccio una questione più avanti, continuate. No, tutto ok, ma Carlo, adesso non sei saturo, è una bella modulazione, ottima. Poi riprendi e ti faccio una cosa dopo, già esco, vai. Ok Marino, grazie. Danilo. Non lo so se c'è ancora Danilo. Certo, perché mi stava dicendo che stavo uscendo basso poco fa. Adesso sono con i bassi normali. Andare, andare a Torino. Buonasera. Ciao Tino. Ciao Tino. Ui, buonasera a tutti. Buonasera Tino. Cazzo da questa. Ciao Danilo. Va bene, sono qua. Allora, io entro un attimo di bianco, per me mancherò 5 minuti, poi rientro comunque, perché sto terminando il lavoretto col computer. E anch'io. Io ho buscato il programma per quell'apparecchio là, mi Carlo. Software? Yes. In una pendrive bisognerebbe metterlo. Registrato. Ciao Carlo, scusami. Vabbè. Buonasera a tutti, vi sto ascoltando perché sto facendo il lavoro, dai. Mi sono andato per salutarvi e basta. Dai. Come sta uscendo questo microfono? Ciao già, devo solo subito, ma già va bene. Ciao ragazzi. Va bene, perché no, ti è caduto in terra, non capisco cosa c'è, ma non esce di radio. Diciamo che è modulazione normale, dai, in verticale. Amplificazione non se ne sente. Non esageratamente. Ciao ragazzi. Vabbè va, un attimino solo che lo apro, vediamo un po' se lo spilotto, perché si è staccato qualche filo. D'accordo. Sì, Tino. Ciao qui. Ho cambiato il microfono, ti. Dove sì. Sto andando verso casa. Va bene. Ho cambiato il microfono perché il Mi 1000 si è fritto del tutto. Si è staccato un cavo all'interno e... dove sia, ho usato la fusione, sono preso l'M95. Questo è normale, era una modulazione più buona secondo me di quella che avevi prima. Però se il volume se va al massimo, se no mi fischia. Sei in compagnia? Sì, ho dei amici in macchina. Va bene, sei andato a fare Valdoria. Magari. Andare, buon rientro allora, dai. Tu ieri hai vestito bene, no, no, oggi ero Lozieri, che c'è la capire che stanno giocando a pallone, quindi sono rientrato ora di pranzo e non ho voluto fare fuoco, ma già ho mangiato bene uguale. E poi vinto? Sì, 5-0. Buona, bella soddisfazione, dai. Allora, partiamo uscia. Allora, il viaggio non è stato nulla, dai. No, ma partiamo uscia perché non c'era la gomma, dai. Vabbè, scusate un attimino, devo stare un attimino in bianco. Corri, un attimino. Sì, sì, sì, sì. barbe e altri accessori possono essere inconsegnati. Gli alunni sembrano spesso scarsi, tuttavia questo limita la loro libertà nel vestirsi, ma non solo. In alcune scuole giapponesi i requisiti non si fermano all'uso obbligatorio della divisa, ma riguarda anche il colore. Sulla A525 è così, saranno tutti incollati alla, al telegiornale. Non so, queste notizie sono sempre all'attenzione di tutti, speriamo che diventino belle prima possibile. Ma ci mancava questo strafottuto russo, vabbè. Vabbè, non diamo solo la colpa alla Russia, diamo a tutto quello che c'è in giro, perché le guerre non si fanno mai da sole, c'è sempre un'altra parte. Non do la colpa all'Ucraina, ma la do ad altre persone. Vabbè, politica non ne parliamo qua. Non c'è solo Putin, Putin ha, cioè, i suoi interessi e poi ci sono gli altri che hanno i loro interessi, per cui vediamola su due campanelli, diciamo, su due campane. Sì, può essere, ma mi sembra un po' troppo audace il signor Putin. Purtroppo invadente sta diventando. No, vabbè, io non voglio difendere a nessuno, però anche dall'altra parte basta essere un pochettino più tranquilli, non dico gli ucraini di per sé, quelli che vogliono far entrare la NATO in Ucraina, no, non serve a niente, cioè rimaniamo tranquilli tutti quanti, viviamo felici, deve essere un paese di cuscinetto come doveva essere dagli accordi iniziali. E poi purtroppo ci sono le manie di espansione, siccome l'Ucraina è troppo importante a livello di produttività, e lì ci sono interessi, quando ci sono soldi in mezzo, ricordati, le guerre sono la prima occasione per cercare di accaparrarsi le risorse. Robè, sto utilizzando un'altra radio, un altro baraccocco, un baracchino. La modulazione è ottima, buona, passabile, scadente, pessima, vedi tu com'è? Allora, la modulazione è chiara, pulita e segnale ottimo, però non è la tua che ti ascoltavo perfettamente prima, cioè perfettamente, prima era un po' più naturale, questa sembra un po' più equalizzata, probabilmente non so se il microfono rende diversamente, però rimane un pochettino più ricca di tonalità acute, l'altra era un po' più standard, diciamo, posizione neutra, cioè avevi tutte le tonalità qua, predominano le tonalità acute. Sì, me ne ero accorto un po', ascoltandomi con l'altro apparecchio, sembrava come un po' pungente, come modulazione. E vabbè, questo è un omologato, ancora omologato, quindi vediamo un po'. No, non significa che stia uscendo male, assolutamente, è un'ottima modulazione, bellissima, niente, è tutto chiaro e pulito, però ti ripeto, se vogliamo essere proprio pignoli pigno, trovato nell'uovo, l'altra aveva qualcosina di meglio, era un pochettino più di riferimento, dai, tipo naturale, più naturale, questa va benissimo, però è leggermente un po' troppo carica di tonalità acuta. Va bene. Poi vabbè, sto parlando che è vicino al mic, non so come se la... Per esempio adesso sono a 20 cm, test 1, 2, 3 prova, qua non vedo picchi, non vedo niente perché trasmettere a LED di quegli omologati piccolini da macchina, dai. No, il livello di modulazione va benissimo, perfetto, niente da dire, segnale 6,9 più 35, per cui va bene, vabbè, siamo talmente vicini che non ci sono nessun problema a riceverti, non c'è nessun problema a riceverti in condizioni ideali. C'è qualche lato su questo canale? Io ho forza su 10, avanti, mollate il telegiornale, tanto se deve succedere, succede. E oggi sei uscito, Robè, di giro l'hai fatto, era una bellissima giornata, io sono uscito ieri e oggi, vabbè, una roba di casa, così, vabbè. Allora, stamattina sono andato a recuperare mia figlia che ieri era da un'amica sua, non sono andato tanto presto, pure mi sono trattenuto un pochettino con un amico, era una giornata bellissima, devo dire, era ideale per riuscire a fare scampagnate, però non scampagnate no, però vai a uscire col campo e andare a qualche parte, però non ho avuto tempo perché poi stasera sono andato a trovare un amico, è stata una bella cosa interessante, mi ha fatto vedere delle cose molto molto interessanti e sono ritornato sul tardi alle 6:30, per cui non c'era più tempo. Dai, tanto ci sarà tempo guarda permettendo, tra parentesi, vediamo un pochettino delle settimana prossima cosa si farà. Speriamo che siano buoni, perché io ho tante cose da fare, devo andare al dentista per dei ritocchi e non solo ritocchi, devo andare a rifarmi la patente, a rinnovare e tante cose. Non lo so, poi stamattina sono sceso in Piazza d'Italia perché c'era, dov'è se c'è, anzi, il mercatino dell'antiquariato che lo fanno l'ultimo del mese, però di espositori c'erano ben pochi, c'era il mondo in Piazza d'Italia perché c'era la manifestazione contro la guerra e lì è diventata una cosa politica perché erano pieni di tutti i colori, di destra, sinistra, sindacati eccetera eccetera. A me non piacciono queste cose perché se tu devi fare una manifestazione contro la guerra non iniziare a parlare destra, sinistra eccetera, è stato brutto per quello, e c'era il mondo, più c'era oggi la giornata del carnevale, l'ultimo, la pentolaccia, ed era pieno di gente, bambini, coriandoli, cosa non c'era, sembrava tipo quando ci sono i candelieri che si riempie la piazza, uguale, pieno di gente. Dava via, non lo sapevo, perché dal mercatino ho sentito che era dell'antiquariato, non mi ricordo se era l'ultima domenica del mese, giusto? Allora la fanno l'ultima del mese e il primo del mese. Questa volta però questi simpaticoni che non capisco la logica, era sempre in Piazza d'Italia, bellissimo perché un ambiente bello, grande, favorevole anche per la gente. E adesso la prima la fanno sempre in Piazza d'Italia, la seconda la fanno all'emiciclo, non ho compreso per quale motivo all'emiciclo, quando è più comodo anche per far lavorare le attività vicine di ristorazione, di bar, eccetera. Sarebbe più comodo perché la gente si fa la passeggiata e il cuore di Sassari è di lì, non è l'emiciclo, eppure qualche buon tempone ha deciso di farla lì. E non sono d'accordo gli espositori, perché ho parlato con tantissimi amici, non si capisce con che logica. Ma magari per dare, non so quanti, se ancora ci siano bar all'emiciclo, io non, praticamente non mi fermo da secoli, pare ce n'è uno, forse anche due, magari l'hanno fatto per far lavorare anche quelli là, boh, non saprei. Comunque niente di che, per esempio roba radio zero, non credo di questo materiale qua. No, ma hanno portato poca roba, c'erano pochi espositori perché c'è troppa confusione, infatti quelli che hanno portato la roba la maggior parte però hanno smontato tutto, perché devi stare attento con gli occhi aperti, quando c'è tutta la gente addosso, allungano la mano, te ne prendono un orologio, ti prendono un quaderno, ti pigliano un oggetto, devi stare molto molto attenti, infatti quelli con le cose più importanti non c'erano, con cose più delicate, dai, perché ci sono quelli antiquari che proprio portano oggetti delicati, vasetti, piatti, e qualcosa di delicato, qualche piccola mobilia, vai, lo rovesci in terra, specchi, e fai, da, non ho preferito, secondo me, e non hanno sbagliato aspettare la domenica prossima. Ok, di nuovo a te, Marco. Cappa, vediamo sul 10 se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Ma davvero tutti per il telegiornale? No, io non l'ho visto, adesso ho attaccato il televisore, alla fine avevo messo anche il televisore, ho due monitor, per cui uno fa anche la TV, permette di vedere anche la televisione. Non sono aggiornato di niente oggi, il telegiornale non ne ho visto stamattina, o forse sì, forse l'ho visto di sfuggita stamattina, però nelle ultime notizie non lo so se ci sono state novità. Ma io l'ho seguito a salti, mi sa che siete più aggiornati voi, soprattutto con Gianfranco, siete più aggiornati voi e la situazione anche nel Mediterraneo, eccetera. Vabbè, boh. Che situazione di schifo, un po' il sogno di malumore, nonostante io sia molto arrendevole, un pochino anche, boh, va bene, tocchiamo ferro. Robè, ti posso chiedere un favore di provare questa NFM, perché non sono riuscito a provarla con nessuno. Sì, 27075. Operativo in FM. Allora, tu in FM sei già una bomba, ha un audio strepitoso questo apparato in ricezione, in FM. Questa è di fabbrica, è probabilmente un po' chiusa e ovattata la modulazione, ma non è detto. Vedi un po' come ti sembra, poi allargherò la deviazione quando potrò. Ti dico una cosa, naturale, però è più bassa della, l'altra spinge di più la M, però la, la chiarezza, la neutralità della modulazione, questa è eccezionale. Ecco, sì, conta che in AM è stato già pompato, in AM il trimmer è stato aumentato, la deviazione, la M, vabbè già hai capito, e l'ho migliorato molto. In FM è vergine, è ancora vergine, perché di solito questi apparecchietti li fanno troppo stretti, cioè di fabbrica, per accontentare magari tutti i paesi, li fanno con deviazione da 1,4, massimo 1,5 kHz, no? Che però è un po' troppo stretta, a detta di molti. Sarebbe meglio arrivare a 2 o a 2,2 kHz. Dovrebbe essere ottimale, sì, 2,2,2. Va bene, e quindi in FM comunque risulterà più bassa per una telefonata, quindi basta alzare al limite appena appena il volume e rende bene, dai, sono contento. Sì, basso il volume, basta che di tutto il segnale, sono un po' fratellato, sono messo accanto lo smitter, a parte gli scherzi, sono bloccato laggiù, non voglio che si bruci lo smitter. Ho tornato la M perché siete tutti e due, soprattutto Natalino. Io sono bassissimo. Mi stanno arrivando oltre il limite, ho paura che si bruci e si rovini, si stanno lo strumentino, troppo forte, riprendiamo la M, dai. Ciao Natalino, Natali, tu eri in FM, sì, come bassina, vero, rispetto alla M? Beh, per forza un po'. E bassina era, confronto alla M era bassa. Vabbè, vorrebbe allargata di cosce. Ma può andare anche così, Natali, dai, che bisogno c'è. No, era basso, dai, io lo sentivo basso perlomeno. Chiaro era chiaro, però era basso. Guarda, io direi, se lui ci mette un microfono amplificato un pochettino più performante, va bene, perché la modulazione era perfetta. Più bassa sicuramente della M, però io non toccherei niente, quello è un apparato che sta uscendo che è una meraviglia. Anche perché cambiare il microfono qua è un non è un problema, però è un microfono particolare, molto particolare, quindi deve lavorare con l'apparato stesso, dai. Oh, scusate, io mi devo allontanare 10 minuti, se ci siete ci sentiamo dopo. Sì, salutiamoci Robè, dai, tanto che adesso stacco che forse devono passare a casa. Ciao Robè, buona serata, buon tutto. Già è poco veloce, è bene, sta lì. Mi dica, mi dica. No, dicevo in generale, beh, quindi come gira, come va? Stasera un po' di poca gente, salto aria, un po' si andava e si veniva, dai. Boh, che palle sta storia. Registrato. Veramente già c'era un po' di gente, abbiamo anche fatto prove in banda laterale e tutto. Preso il controllo della capita dei archi. Sì, sul 40, registrato il break. Sul 40, io vabbè, stavo. Non ero pronto, diciamo, dai. Non ero pronto, avanti il break. Ciao, buonasera Natalino, buonasera a tutta la rota. Gianni, vero, se non ricordo male, scusami. Sono Andrea, sono appena rientrato e vi stavo ascoltando. Marco da questa parte, Natalino, Roberto si è allontanato. E poi entrerà qualcuno magari se fate l'appello. Io adesso 8:30, vista l'ora mi devo preparare, dai, un due passaggi eccetera. Allora Andrea, ebbene Natali, cosa ne è uscito in banda laterale? Perché io non potevo ascoltare. Cosa stai provando? Quale? Quello buono? Sì, questo qui stavo provando, li sentivo tutti bene, erano tutti centrati, il virusso. Beh, quello, se non è centrato quello, Natali, un pochino. Quelli là, se non c'entrano a me, io non li sento, capito? E qua è questione che devono sentire bene a me. Una volta che sentono bene a me, allora ci sentiamo tutti bene. E c'erano gente con apparati come questo. Un pochino, magari non tutti centratissimi, così è? No, erano tutti centratissimi. C'era Danilo, c'era Marino, e sono apparecchi come questo. Sì, a voglia allora. No, con Baracchina non si cattura perché come ti dicevo, anche il 3009 se ne va per fatti suoi, richiede dopo vari anni un po' di centratura e una rottura di palle. Ho fatto con strumenti di laboratorio, non all'occhiometro. Bene, riprendi Andrea, riprendete voi che vado a bere. Ciao, scusami Marco, non ti avevo riconosciuto prima. No, un semplice passaggio per salutarvi, vi ho sentito. Niente, augurarvi buona domenica. Grazie altrettanto Andrea. Ma mi si è calata la voce. È calata freddo, sta facendo una lì, mi ha cacciato tempi. Ah, così è. Ciao Luca. Ciao. Troppo sesso, ok. La cioccolatina non li va buio. Asciutta. Sì, tutta la notte infornando stavo. Cava. Pure la canna mi friggi, Luca. Ma va bene, lo sento.